Jo a fil giurida del intronetia del curia del genobia tonglius, anna majulsa tada miri maserati wohata de tarufi fi curia genobia, akka del ijtima, li halli maserati istrika kil jinsi del jesil yabani, amama safarat del yabania radasiul, yamar rabia jura minhada shar.